dunque, ipotesi De Magistris, che non è troppo peregrina, secondo me. Sono davanti a Scilipoti. Sei davanti a Scilipoti. Ecco Scilipoti, onorevole, sono Parenzio. Oh, grande Parenzio. Ma come sta, meraviglioso? Scilipoti. Che incontro, Mastella, che incontro. Ma dove l'avete incontrato, Scilipoti? Come sono vestito? Come sei vestito? Posso abbracciarla? Ma che scarpe hai? Sono scarpe di Della Valle. Stai attento che cadi, perché hai la... Allacciami la scarpa, Scilipoti. Sì, ti prego, vi allaccio la scarpa. Scilipoti, per la zanzara, vi allaccio la scarpa. Sei meraviglioso, sei meraviglioso. Dammi un abbraccio, caro Mimmo. Abbracciatevi, no, e allaccia. Cosa dice? Esci di Potti, è venduto. No, non dica così. Esci di Potti, non si permette. Ma chi è? Perché? È una signora che ti ha pagato. Viene pagato, cioè. Tutto in diretta. No, c'è una signora che ha insultato. Esci di Potti, no, no, non ho insultato. È un dato di fatto. Ma che dato di fatto, signora? Ma la smetta. Adesso mi indigno io a difesa di Scilipoti. Aspetta. Io non ero lì per vederlo. Se lei fa un'affermazione. Ha dato da un mando all'altro. Scusi, non lo so, magari il signor Berlusconi non le ha dato niente. Ma un'affermazione dicendo che mi ha pagato. Chi mi ha pagato? Cioè, mi dica dove proprio mi ha pagato. Chieda la sua coscienza, Scilipoti, chieda la sua coscienza. Ma io la coscienza. Converta, Scilipoti. Io la coscienza ce l'ho. Non si vende. Io la coscienza ce l'ho, e forse più di lei. C'è qualche dissenso, Scilipoti. Ma è normale, il dissenso è normale. Non è normale che... Chieda scusa agli italiani. Dice, vabbè, chiedo io, Scilipoti, chiedo scusa. Ma perché dovrebbe chiedere scusa agli italiani? Ma perché dovrebbe chiedere scusa? Le passo Cruciali, aspetta. Dovresti chiedere tu scusa agli italiani. Pronto? Caro Scilipoti, come sta? Come sto? Stavo benissimo, ora non sto tanto bene, però... Perché ha incontrato Parenzio, Parenzio, no? Ha incontrato Parenzio, va bene, no? Scusa, sento malissimo. Può succedere anche di incontrare Parenzio, dico, per strada, cioè può succedere anche quello. Sicuramente non è un fatto negativo, è un fatto tutto sommato positivo. Tutto sommato positivo. Senta, vuole salutare Clemente Mastella, che è in collegamento da Ceppaloni? Come? Vuole salutare il signor Mastella in collegamento da Ceppaloni? Con immenso piacere. Mastella? Salve caro Scilipoti, come va? Ma vi conoscete voi due? Ma non ci siamo mai visti, no? Mai visti, però questi responsabili si sono dati da fare, alla fine qualcosa hanno sgraffignato, Mastella, hanno ottenuto, Ma qua sgraffigna, alla fine non rimane più nulla, come vede. Scilipoti? Non ho capito perché mi è caduto l'auricolare. Diceva Mastella? No, Mastella stava dicendo che non vi conoscete in realtà, no? Dice Scilipoti che qua è Ristica, non gli cade solo l'auricolare, qua cade tutto tra poco. Come cade tutto? Chi è che si sta... Non l'auricolare, cade tutto. Cade tutto. Scilipoti, dice Mastella che cade tutto, il governo, cade tutto. Ma speriamo che ci sia Mastella che regge, stia attento però dove mette le mani per reggere. In che senso, scusi? No, meno male che c'è Mastella che regge, lo dico, nel caso in cui dovesse cadere c'è subito Mastella che cerca di dare una mano di aiuto a non far crollare tutto. Ecco, però, dunque, dica dove mette le mani, dico. Ecco, dica. Io sono fuori del Parlamento, voi state in Parlamento. Scusi, Scilipoti, dica a Mastella di appoggiare Lettieri, di essere chiaro, di non tentennare, che bisogna vincere a Napoli, secondo il centrodestra, naturalmente. Ma questo deve essere lui, io non posso... No, ma lei sarà con De Magistris, Scilipoti, lei sarà con De Magistris. Ma è mio il telefono. Ma che vuoi? È mio il telefono, Scilipoti. Non capisco che poi sono io che... Ma io le ho dato anche il mio telefono. Scusi, Scilipoti. Parenzo. Scilipoti. De Magistris era... Ma come si chiama? Parenzo! Vabbè.